riuso solo, riuso. Oh, oh, oh, è fuso di due riusi. Ah? Ti sei infuso. Non credo, no. Oh, sei piaciuto tutto. Certo, non fa un gutte giù dei vau. La sarà va. Solo che spendi l'anno, spendi un bel anno. Cazzo, per la terra mia che dopo metà l'altra a fare in terra, meno male già calmato il tuo vento. No, sai no, ma calmato assai no, è sempre andendo. No, è un bel di manco, è un bel di manco. Cazzo, se tu dici così, cazzo, mi sono due girati mollati come te la bigiava là, capito? Ma te la bigiava due girati più corti, erano pariati distaccati, invece a chi era bigiato si croccava appena un tubo. Ti vedi che il dirante la segheggiano. Deve essere che la segheggiano. Speriamo che non li fari. Allora, è quasi per un tempo bisogna stare a tirarli un poco. Perché così come piace, cazzo, dimmi che era forte lo penso, la bigiava, 100 km all'ora ha segnalato, in 10 punti, però in occhi, se anni 40, 60, tutto è trucco. Sai che cazzo era bis di 90, era to, era bis di 90 e cazzo era, cazzo, ma fuori di sì. Arrivi da Bula 90 e arrivi tu, speriamo, la mia aia non l'ha fatto nulla. La storia più corta, cazzo, più corta che come volume, dai, la mia cazzo, senza presente, mi lascia mai data e ci speravo non li varia, cazzo, per carità, un macello, un bel forte, avevi capo c'è d'ora, canto un buio, la grandina. E alla giovinità, sì, cazzo, il tuo tempo è bisogna continuiamo così a andare ancora peggio, ma tutti i bambini ci dati si azzaccavo a culo che lo fatti fare a terra i cinque più grandi da questi grossi mica erano i grossi mi al fatto che Rai 3 Rai 2 ci ha tirato un bugno non vedevo che se tra il caldo e il freddo si mi sa tutto si mi sa succede questa cosa. Ah, vero. Oppure a cosa? A Marco Mere che ha preso la zona, cazzo. Come si dice, grandi, la gran carriera, l'ha fatto un poco d'anno, cazzo. Da fare l'albero, ma non so chi è, hai chi c'ha giù la macchina con due persone dentro. Speriamo non sia già ne fatto nulla, sì. Io se continuiamo così. Bello. Beh, Lucrezia. Bello. Calmata. A tratti sei uscito lui. Adesso va bene. No, sai no, ma te hai bruciato, non si comprendeva nulla. C'era un fruscio, c'era uno striscione. Non stai uscendo. Chi è che sta chiamando? Adesso uscendo, sto prova. Aspetta che c'è qualcuno che passo passo che sta chiamando. Ah, Terracina era chi sa il bruno falazza. Uno morto e uno gravemente ferito. Ciao Maria, aspetta un attimo. C'è che sta parlando che non ha giù compreso giocare? Cioè c'è basso basso, segnale 00 proprio. L'antenna cosa? Cosa? Ma chi c'è l'antenna? Senza antenna sì, ma che mai lampada di nera? Non c'è lo so adesso, ancora. Sì, adesso sì. Ma chi? Ma buttata giù te la. Sì, cazzo, sta attento perché ti bruci l'apparato così, Ma l'altra di giù non funziona. Ah, giù è con il cavo solo. Quindi se dimenda sta sopra. Se prendi già Maria. Cosa è successo a Bacchino? Ah, Bismarck, mi ha lampato l'antenna e andando con rugavo giù. Ma che è la matto fa? Ah, boh, non lo so. E chiedi, io non lo sento. A terra brucchio. A chi? Cosa ti ha lampato la matto fa? A Baia. Ma parlando sta. No, non lo sento adesso. Luca, c'è la lampada, sporchi la roba in tutto, si dice era fuoco, ma fuoco a viru, scatta me ne era mai zenzi, però ci ho fuggito subito a chi era fermata, scatta il vento forte, scatta, isso madonna, scatta. Forse alla sorte ce n'è ancora da vedere, mi rampa tutto. Ma la mia bisogna controllarla solamente, ho visto com'è, ragazzi, tra. E non l'ho ritirati, evidentemente sono elastici quelle tirati, cazzo, capito? Rubarlo lo rimuovia prima, cattava invece andava un po' su questi cosi, rubarlo si muovi, cazzo. Prima si bisognava solo l'antenna, ma rubarlo lo si muovia, cazzo, evidentemente è elastico quel capo, capito? Deve essere, se adesso ci sia elastico, se infatti, oh, si vorrebbe di quel nylon, di quello di che si usa per fare i parametri. Cazzo, però sono tre tirate sono buoni, perché sono quelle corde che mettevamo nella barca quando avevamo la barca, cioè grosso, il capo buono, capo marino, ma gli altri tre invece sono quelli che ho preso da lì, capito? Poi c'è quello lì, ma quello di sotto sono capi buoni. Deve essere che si sta facendo, quelli lì ti fa da coso, deve essere che sono da... elasticizzati sono. Capi, capino tanto buono, ma evidentemente sono lasticabili, se no non si doveva muovere il palo, cazzo. Però chiaro che dopo tanto bisogna anche tirarli, capito, registrarli di nuovo, e noi non l'abbiamo registrati, magari come sono stati fatti nodi, e adesso si è tirato, si è assestato e rimane mollato poco a poco, allora bisogna tirarli di nuovo. Infatti bisogna tirarli, sì. Oh, c'era Luca in PMR, hai sentito? Deve essere Luca, su Giulio, funziona meglio. Chi? Attento, signor Marchisio, alla Leara di tu. No, era giù, in casa sua, e ha detto che stavo facendo solo con il capo. No, non so se è salito su. Sì, c'è freddo adesso. Sì, quando esci fuori c'è quel vento freddo. No, c'è le cose da su, trasmette bene. Ma era giù, era. Non sentivo, il segnale è sempre bloccato, fisso, Non so, lì bisogna che si faccia una bella antenna. Infatti, se no, siamo sempre alle sgocciole, come l'apparecchio che c'aveva prima. Era un mese sempre, scia o non scia. Meno male gli è riuscito a mettere la posta adesso, va. Infatti, lì si deve essere, stava andando solo con il capo, stava andando. Però non deve andare troppo, brugavo. Pagato la gente su. Occhio, che quello fa la fiamma subito, Sì, infatti. Ma non che non entra in PMR, ma PMR giù non ne ha, c'ha il portatile solo. PMR dovrebbe averlo, no? Non lo so. Attento, si roba chi sei tu? Mi ha dato una farriga. Forse sta salendo su, piano piano, a gradino. allora, per carità. Tanto una grazia, mi ha mandato questa fotografia, catta, sullo scatto, quella macchina schiacciata, con due persone dentro, cazzo. È strano, prima me l'ha detto mia moglie, e dopo ho guardato il telefonino e c'era sullo scatto, c'era questo filmato, è proprio Graziella me l'ha mandato. Catta. Meglio che a me non ha già delle cose che non ne voglio vedere. Vabbè. Senti, mai pagassi uno, gatto. Dove va? Avanti c'è il telefonino, figlio. Ha superato il birichino, ha superato. Purtroppo. E più andiamo e peggio, eh. Infatti, allora. Senti. Avevo c'è un telefonino, cazzo, si è lanciato, anzi ci siamo lanciati, ma tu vedi camminendi, ma nel minore tutto col telefonino è, a capaterra, cioè, prendi di mano, prendi i tocchetti, prendi il cazzo, boh, ogni tanto si scuola qualche palo, qualcuna. Se ne vede non bene, mi dice gente, attaccato al telefonino e guidelli. Quando si inabita è troppo d'acio. Cioè, sono attenti, infatti, e così succedono anche tanti incidenti. Ma tutti i giorni, io quando cammino, e rivengo, camminando con il telefono, boh, catta. Quando mi hanno appesso i gatti lì, ferma di un parcheggio, no, e telefoneggi. Catta, vabbè, sei tranquillo, fai essere più tranquilli gli altri anche. Catta, mi hanno appesso che può succedere sempre qualche cosa, boh. Sì, grande, sabato a Manzano, era una signora. Una signora, una ragazza era. Cazzo, del telefono in mano e non voleva camminare. Andare da me, voglia, i carabinieri. Ma visto che ero su nenni, ha sorpassato. Si è filmata da un'ansia, se i carabinieri hanno fatto a bosteggiare, hanno detto, ma perché non stava a camminare? Come mai c'aveva questo telefonino e non voleva camminare? Cioè, il signore, ma non lo sentiva il signore, di quanto era distratta. Io mi sono appostato lo mattessi, agito col telefonino e stavo andando a zigzaga sempre. Garabenzio, mi dia attento il libretto. Sì, in questo caso bisogna. Ma penso un bene, caccia. C'è un bocchino che danza. Si ferma, lì bisogna usarlo. Se usa prima fermi, caccia. Io caccia, ma fai dinna, ma fa passare un dranno. Niente a fare, caccia. Due voci a sua dice dello dranno. Da con un telefono in mano, proprio curva. Adesso sono arrivata a chissà. 1500 euro di multa. Al ritiro della patente per 6 mesi. Ma chi impara la prossima voce? Sì. Ma un bel niente, amici, proprio si buntare. E si fermano a che luogo? Tu, sai che tu ne fermano quando li bloccano le donne, non hai idea. Però magari se ci voci, stancare luci, lasciano andare, capito? Ma io sono la lasciata andare che vero io. Anzi. Tu, mi si dispiace, ma non posso fargli nulla. Lei è attaccata al telefonino, tanto del coso, andando a zigzaga, io le devo fare per forza contravenzione e ritirargli la patente per sinistra. Se continua a costringermi così, dovrò fargli fare la revisione della patente. Possono ritirare, a me mi sembra di no, non è perfetto, la ritira la patente, gliela ritira quando arriva il verbale. No, gliel'hanno ritirata. L'hanno ritirata e gli hanno fatto il foglio per arrivare a casa direttamente subito e posteggiare la macchina. Infatti dovevi girare e posteggiare la macchina e andassene a casa Giulia. Anzi, e tu, può ringraziare questo, che noi ne sequestriamo anche il telefonino. Cazzo, deve essere un bene, cazzo, domani non fermo più messa lì, cazzo, che può succedere a che cosa. Poi vai di Matteo, capito, c'è la patente, cazzo, e la patente, se va l'uscita la macchina, uno serve, cazzo, c'è la patente, cosa fai tu? Boh, sei fregafottito, ma tanto tempo, Infatti, chi te l'ha detto, e adesso come faccio ad andare a lavorare? Quando uno sta al telefono, non gli interessa nulla delle... bisogno di andare a lavorare e tutto quanto. Peggio per voi il telefono lo dovete mettere forse già da una parte, ma se non fermarvi direttamente e parlare, basta, solo così potete fare. E se gli era successo un incidente, l'ha detto lo carabinieri, cosa avrebbe fatto? Questo è ancora peggio. Così, adesso ci penso due volte a prendere il telefono in mano. Ma si deve appostare, non è che puoi tracciare e fermarci in corsia a tracciare il traffico, se appostati e parli col telefono, ma devi appostarti in modo da rintracciare anche il traffico. Infatti, e di cui a me che non mi sono un telefono, un biglio, passo su un armi e posteggio, mi tocca un abbassi, pongo una freccia e mi tocca un abbassi, si verdisce. Ah, se no continua la sujuna. E forse cucci il fotto. Ma vedi, te lo comprendere. Io mi fermo e te lo dico. Non rispondo in questo momento. Aspetta, lo lascio qui là. Dai, che sto per me, allora vengo un numero, abbaglio un numero, allora posso lo chiedo e vedo un po' se vuoi o se lo vuoi. Infatti, faccio io anch'io così, no, me lo rischio io la patente, fa un telefono. Se posso rispondere, rispondo, se no, posso agitare. L'ho fatta, bisogna abbandonarla, che se ne frega sia che si sia, se in questo momento, che poi creare anche un incidente, capito? Perché basta il caso di vermi, gli rispondi, oppure già ti rimane un numero e fai tu un numero, non ti pare. Ah, infatti. Così, se posso rispondere, rispondo, secondo che è. No, non posso agitare. Buonasera, se sto qui mi fa agitare. Io ti credo di sì, buonasera. Chi è te, chi? Tu cacci? Rubabba. E chi c'è? Chi c'è su questa ruota? Quattro raggi e un pezzo di dubbio. Ma è tutta marredossa, è sarruta, la giunta gli rendi marredossa. Avanti, avanti. Ma tu vedi dove stai sta macchina, grazia? No, non vedo, io non ho giù macchina, mi l'ha già affittata. Ma è la macchina dove, Maria? Insomma, per caso, mi era a telefonarti. Che a te invece no, mi sei conformato che sono riduci, che sono tranquillo là. No, no, lo sai che la gioca quando va il vento si rintana. A Terracina era che si sedette, no? A Roma. A Roma, ma non si chiede anche una Terracina. Pure no, che io so, Luca me la disegna vicino alla cura nel paraduro albero. Pure vicino a casa di Luca. Un episodio che c'è il ringhiere, ne ha parlato, ha pigiato il ringhiere, canto è, l'albero si è troncato. Ma la sorte, chi si tira a piazza, cani in agato, non si troncano. Quindi uno proprio si muggia bene ancora dritto. Tu catramo dalla tromba di Riccardo, gli hanno raccolto in terra un bel dubbio, la parata di Rocaracci. Grazie, te l'hanno fatta alla fine, che si lui, babarette, grazie, c'è successo questo. È già la fine, c'è poco la crosta. Capita, che c'è la crosta, sì. E perché avanti ieri, quei quattro che stavano lavorando, che erano venni con lo scavo per fare lo scarico nuovo della fogna in quella villa? Franato tutte, sono morte tutte e quattro o cinque mi pare, un padrone è morto. Infatti sono stati inghiottiti, per chiamare già la giustizia. Per carità, morirà come il drone, tore. Infatti, vuol dire che non gli ha destinato, deve andare. aspetta a vedere se se la puccia a su. Signor Bacchisio! E Luca, non ve manicomio, Bacchisio l'ha inteso tutto scorreggente. Ma siete che forse l'ha inteso che basso basso. Signor Bacchi, ti sento ma proprio... Bogu, bogu, bogu d'interno, quasi nulla. Così ti bruci l'apparato, ti bruci, mi. No, non svuotarlo troppo, si a perdere là. A Sagussi. Aio, ma curi di là, che fa? Sotto la gaura in campagna. Non si può occupare come ti ci devi. Una bella radio con una bella antenna e un bel alimentatore. E la passi tutta questa roba, piantala. Ma non è chiuso che ne farà dall'antenna e deve andare con il capo, giuro. Grazie. E capita. Come sta fatta? Allora noi la bulluna da vesta a cosa? Le fa per noi la butti vesti. Cosa era per la via rombata? Immacola me, chi ti dà un vento, che la madonna. Boh. E c'ha via, mara giù, c'è a stazionare a venne tre. E io uno. Bacchi, buonasera, basso basso ti sento, però ti sento Bacchi. Io non lo sento nulla. Basso basso, due di segnale c'è, a radio è uno. Pensa un po' così, intendo io. Ho sentito quando hai avviso di cosa Graziano. Vabbè, adesso me l'ho chiamato, non ha risposto, non stava uscendo. No, Gianmarino, stava parlando. Aspetta, ma chi? Dimmi. Ma chi c'ho? A meno che non si attenda sopra. Da me non si muove nulla. Ma che da me vanno, ma poc'anzi già l'ho sentito, quando era a rispondere da te, grazie. In quel momento, in quel passaggio l'ho sentito, e poi la gente su più. Forse c'è da sopra, va. No, stava parlando Giomari, e tu l'hai soprammodulato. Quando uno non lo sente, magari è chiaro che lo soprammoduli. Vabbè, va. Riprendi tu. Ma se sale su, non so, se ne sta già rungando, che è meglio. Grazie, lo tirai così in terra l'antenna. Ah, ma penso di no, ci sono occupati i tenni, però stazionale ne ho tre. Deve essere Don Bolelli, cosa ne sono? Un tacchetto ne ho io, sono sempre buono quando fa l'epoca, no, pure mica la mia dovrei davvero, anzi pensavo che mi ne qui in terra, invece non mi ne cuta, la maglia calmato lo vento, però stazionari non ce ne sono, capito? Da te io sempre stazionare chi deve essere un capo tutto malandato, grazie a io, per un bel bollato, però occhio, non è che devi fare passaggi lunghi, fai passaggi corti, non succede niente. Già lo so, magari dove c'è l'aggiunzione, il bussolotto, cosa ne so, si è aggiunto. Può essere anche lì, può essere anche lì. Ma per l'inverno non si può fare nulla buono. Non si va che fare anche benedì come te la come ci si deve passare, allora si può fare questo lavaggio, ma se no in inverno mette a fare un freddo. Ma se fate una ribetta, già ce l'ho il figlio, tanto lo devo solo svitare e avvitare quello là, e poi è tutto diretto perché è più lungo quello là, questo è in due spezzoni. Può essere che non ha fatto bene, ci crea che anche stazionare anche quello. Ho noto. Si faccia un ballo, vai forza, che se no da buio. Passa oggi, passa domani, perché non lo deve vedere a te, non ti funziona. Non l'ha fatto i figli per un bazzavà, Graziano, lo saranno. Che quando ha pure messo un spezzone 10, del tubo di la stufa, allungo la cara, a minuto ne svitto qui e ci ha visto quello là. Si infilo 30 rubucco da il pianerottolo e siete già dentro, ma già faccio veloce a metterci. Infatti devo solo svettare quello là, perché quello che mette è tutto unico, è più lungo. Ah, se l'avrà già accorcia un po', a chi? Sono 30 metri. Ma lo dico io, con tanto tempo vento che vera, e tutti ricivo. Non lo so, talmente anche il ferro, anche il freddo, i temporali. Ve lo dico. Di vero. Ah, già lo sai, di vero dico, già se non pensavo saremmo gli io. Ma se per caso non ha giocato la sapi, mi piglio una magnetica, chi sa va via la giudata, me la giù in tutta e sa giù comparato. Ma bon, con la ringhiera già esce domatta, intanto ma ce la mi dà. Quattro iatti che c'è uno, viene a fare i buchi. Ma... fanno la sala, che becciola fa a far fuori il cavo, boh. Ciao, mi piace, Oh, sì, no, figlio, lo portate le tratte, lo portate le gambe, si scioglie se lo lampo. Tanto vi raggio, ha rubato, lo portate, ed è una bomba, lo mattessi. Boh, vediamo un po' se al Bacchisio, ci si, Bacchisio si è persi la bufera. Luca mi ha detto, non entri nella 27, siamo tutti nella 27, che fine ha fatto questo? Infatti ha fatto la battuta e si è ritirato. Deve essere magnete la bassa al forno. Una vagogna è che sono cristiano, sempre magnete. No, la bassa è magnete, lunga cumela. A che domanda macco, ma lunga cumela. Non te la metti, l'hanno ammazzato. Ha fatto strage di gaccumela. Non devi ripiare più bene. Dai, c'è la magnacacco, c'è la magnacacco. Ripocciati non si agacca. E chi di un generalissimo, c'è la pesca che ha fino a fatto. Boh, non potrà bere a 26. Sì, ogni adatto mi manda messaggini, me la manda dietro un po' di messaggi dell'albero, crullati. Ragazzi diventato lì, ragazzi, allora si può fare pesaggio, chissà. Ha fatto ritirare, va, si ha fatto ritirare, così che va sempre a zonzo. Da un cosa all'altro, gatto, i ciucchettini si raguicchioni. Già l'ho visto sempre su Facebook, su Instagram, o cosa si chiama, con questi travagli che fenni, manici di fucile, lampioni, già ne fenni poco, vernicelli, cubicelli. Ottore, a te cubicato nulla da. No, con me così è serrato, ma serrato tutto. Proprio, ma sta vinto tutto, ha detto che cosa viene via, e non si fa di manco vinto in di. Andiamo bene. Perché si è andata all'Ippica. Andiamo bene, andiamo. Come si dice da romanaccia? Andiamo bene, andiamo. Aspetta, grazie. Ma chi? Ma tu sì? Nessuno puoi salire, no? Io sì che ti ascolto, gli altri non lo so, però io già ti ascolto. Basso, ma già ti ascolto. Ah, ho sentito un'anima da dentro un loculo. Ma chi? Già mi senti? Proprio piccolino ti sento. Quanti metri sei sotto? Sì che c'è Gio Maria, ma non so se ti ascolta. Gio Maria, l'ascolti? Io lo sto ascoltando, basta, ma io lo sento, capito? Ecco, portate lì, ma te ha detto, capito? Però già lo ascolto. Meglio così, se l'ascolti. Però ma chi? Portatelino, sì, ma con la terra sua? Non ti salire, ma chi sul tetto, sai che fai la fine di Vantuzzi, rubare a fulmine. Capito mi hai? Ma l'ho sentito bene quel passaggio, sparito. Sì che sto uscendo bene, io lo sento bene. Cacca, se continui a farvi danno, non intendi. Ma forse è diventato usoso, è diventato... Vero, Bacchi? Ma lo sento adesso. Ma farvi danno, tu, non so, è sopramodulato. Un bel sotto l'ha ributto. Ma chi so? E adesso sei ancora più basso, sei diventato. Grazie, hanno detto che non ti ascolta. Adesso ti sento. Un pochino già ti sento, poco fa niente. Prova. Otto, mi assento un attimo, mi arrivo subito. E ora siamo qua. Cata, non ha dato nessuna carica a Nisi. E di cosa tu? Siamo io, Graziano e Gian Maria che si è assentato. E tu? E Luca c'è, ma non è entrato. Sì, si continua. Ma così con che te carichi? Sta scaricando i fulmini, ma sono in lontananza. Mi hanno mandato un video stamattina alle 5. Una paura dei fulmini che c'erano alle 5 di mattina, un'ora di fulmini. Alla base di Goswilani, alla base di... a base di Nuoro, Olbia, da chi si basi? No, pure in occhi, da casa, da Rocco si vedeva la base di Larida, ma fulmi, da cagate sotto, si illuminava tutto. C'è teso un amico che era a Olbia, che era a fulmine, a saetti proprio, boh. Ecco preso Bacchi, Bacchi Gio, e ahi, già siamo qua. Ecco preso, grazie. Agabetti, Ruacone, ne farà d'uno, se ho rimasto secco, tutto illuminato, sono fuggito dritto all'orecchio. Cazzo, ma ci ho mangiato il bantarone. E che andava? Sa cosa è? Piglia il sapone secco e fregaglielo. La sapone sta secca, ce l'hai. La prende e gliela strofini. Sapone liquido ciò. No, con quello asciutto, gli saponetti che si usano per il bagno. O che si dice i saponi della roba, non hai. Non dai, non la giudici. No, io in bagno c'ho il sapone liquido e anche la saponetta. L'ho sempre avuto, anche in sagialla che prende la roba a mano, vado. Ehi Abacchi, adesso sei troppo basso. Il segnale è forte, però la radio è bassa. Però il segnale è 8, la radio è bassa. Ma già ti sento però. Grazie a te, lo senti Abacchi. Sì, adesso ti sento anche più forte, è meglio ti sento, va. Così già va bene, là. Intendo, ha preso un rumore, però già ti sento. Ma va giù, treni stazionari, faccio passaggi corti. Ce l'avevo io una base magnetica, nuova, la mia sono bruciata, la mia me la giù in duda. Mi sa me ne ordino un'altra, quando c'è tempo brutto, metto quella nella ringhiera. A chi no che mi segna di stazionare con questo gavetto? Come sei proprio te? Il barilotto cioè, mi risulta qua, mi in cucina sul pensile, l'ho guardato l'altra volta, era un polleno, l'ha distrinto, a meno che non vogliono farti i bucciolotti, buoni salga da nuvo, là, di quella prolunghezza. E infatti scaldano, perché quando mi esce lo do, è un po' tiepido, infatti scalda, infatti non devono essere fatti bene, là. No, perché tanto devo cambiare tutto, lo metto diretto, quello l'ho messo perché il capo io l'ho spostato, perché dove scendeva prima, sarava in facciata, arrivava giusto qua al tavolo, anzi mi avanzava mezzo metro, boom, e rimaneva in terra, così, capito? Invece questo rimane più corto perché gli ho spostato per non vedersi in faccia, ho fatto un buco nell'angolo del palazzo e entra dalla tromba delle scale, no? Sopra il pensile di cucina. Però me l'ha accorciato. Ha detto vanno a mareavano da Gucci, da Bui. E me lo devo cambiare, capito? E avevo messo questa prolunghetta, c'è la prolunga attaccata. E già lo so, ma per esempio l'altra lì era 1,8, 1,9, 2, più di quello no, quando è avanti ieri che l'aveva accesa. Oggi invece mi adesso è 2,8 e no, non c'entra niente dal capo, il giorno che lo cambio l'ho visto, che la richiesta pure il pezzo di tubo della stufa, faccio la scala lì dietro, svitto quello e avvitto quello là, già faccio veloce, poi mi guazzai. La di che ruggiamo già vedimmo, ma è da lì, la penna non va nulla, ed è anche ben isolata dove c'è la carica e tutto. E poi il giorno che salgo gli metto anche l'isolamento più bene dove c'è il bussolotto e tutto. No, a smontarla per pulirla lo faccio all'altro anno, a estate. Ah, vanno nei bossi, oh, non me la putti nulla, c'è pulita. Il giorno che metto però il filo gli spruzzo quel CRC che c'ho, glielo spruzzo un po' dappertutto e gli rimetto l'isolamento nuovo, diciamo. Sì, grazie, piano piano, a me fendeva. No, un giorno che fa bello, tanto devo salirci per pulire lo spezzone del tubo che c'è sul tetto, no, della stufa. E dunque, se la fa vi dico, la di ghiaccio, ma pure chissù, che ne lo giro, l'imbio di la bucca, sento bene nella becca, pulisco dove c'è il gomito, ne racchiudo grazie alla bucca, e ce l'ho rimessa. E roba di 10 minuti, ma è dato il solo giro dietro, allungo la scala e mi svitto che dai avvidulato, ma... E andate, signor Bacchi, dai dai, andiamo, santa arrangia lì, ti ho capito, già ti ho capito qual è, non andate a intendere la carica dei fulmini, niente, andiamo. E le puntate che funziona, vedi, è sempre comodo avere un'antenna di scorta, ma anche piccolina, già se vi io devo avere in qualche posto avanno un momento lì, forse in garage, una boomerang della 27, un metro mi pare che è lunga, pare un cubo, un ruccio di cubo, e un'altra che c'ha tre stilo che deve essere in garage anche quella, non lo so quella che antenna è, una c'ha tre radiali in parada rimane, mai adoperata, nuova, mai usata, amico. Via via i roghi a tutta dritta, a sinistra, in un terrazzo, in un sgabuzzino, in un viale rotto, e poi se ne aveva parata in garage. Ma adesso non mi ricordo se sono quasi un metro, una cosa del genere, e già sono lunghetti già. Infatti io quelli li avevo attaccati così e mi ha ginnastrati insieme all'antenna. No, la bumera l'avevo smontata, l'avevo giusta burita e poi non ne ho più piazzato. Ci ho lasciato anche le staffe, quella la usavo in da camera da letto, ho capito, perché scendeva, era in direzione in camera da letto, avevo fatto un buco nel muro e usavo quella la camera da letto e già funzionava bene. Però poi una linea giù di là da camera da letto non me ne ho più messo, radio. E ha allora l'ero levata per quello. Sì, signor Bacchi, che è così, sì, e purtroppo. E vado a giurare la Gran Play, giusto, in magazzino io. Che è buona buruvizza, è una discorsa che ci vuole sempre, da. Papi, se la vorrei dargli a fa, chi sa dirà la cosa, fa la BMR, invece devo dire aiutare a Santa, ha detto no, non la distruggo. Ma che se riesce a comprare, pigliarmi la campagna, se vuoi la Gran Play, tu sei in campagna. Vai, va tu vanno a tagliarla, a casa, ma la BMR, gusta la cazzata, quella vecchia mi sembra la più bagata da 30 euro. Cosa? Hai arruinato l'antenna, Luci? No, non conviene. Non conviene, no. Infatti, è in Kiwi, giù sul magazzino, in Kiwi. Hai abbigliato che d'altra, non la giubbuccia, nuova nuova. Vabbè, pure sempre si vive, discorsa. Io mi c'ho anche quel portatile, quello c'ha l'antenna sua cannocchiale e funziona bene. E più gli avevo fatto uno spezzone di filo per attaccare l'antenna esterna alla manna. Ma sai quanto funziona bene? Ed è un bel antico servizio a radio. Bianca, color crema, è dipintata, la bianca la vai color crema, figurati Bobby Beach. E c'ha 23 canali e funziona bene. Sì, c'è chi dirà che è una busta, Gio. La giù trattato io, uno dei dieci. Ma non so come con il calo così scendo. Sì, per me pare per la via Burubacchi, c'è per la via. E quello, te ne ammette la cavaccata, abbiamo usato un 23 canali. Un che d'antenna telescopica, ronga ronga. E non so come con il calo così scendo. C'è un carruccio. Eppure quello che c'ho io c'ha l'antenna incorporata sua telescopica. Adesso funzionava, è pulita pulita come radio, sia in recensione che in ascolto. Una bomba. Come l'hai fatto con Ferrana? No, va, quello di Calimero, che è tutto nero. E se bianca non è nera, netta, non so, ma dici che è bianca, ma dici che niente. Non è, ma forse tu, non so come te lo bianca, non è tu. Ma chi sentivo toccarti, ma a momenti ti sentivo bene pure, toccarti pure, adesso ti sento più bene, va. Va benissimo, Bacchi, il tuo Graziano, fa la pelle di bianco, da voi diventa niente. E allora, aspetta, riprendi il tutore che vengo subito. Ehi, a casa che andiamo. Dai, ci sono delle scoppici. Ah, ma di capo lo portassero a mercatini. Andiamo. Apri, oia. Grazie a Reddo. Boh, per carità. Tutti ricchi e piazza di Santello non sono riuscito mai a stare. Se non andai giro a mangiare B in agriturismo, però lo attempo a piazzarsi l'antenna. Vuol dire che non ha gana di farlo. Allora, Mandrone Burmaghisso, ma non penso che sia Mandrone, fa chi in casa gli attravaglia, noi casi il remo, però... forse come ti viaggi, avanti c'è Bacchi, ma oggi mi sei qua la campagna, Bacchi, io sono sceso in campagna, però non è che qui ce n'è qualcuno, però non lo tanto, ma farei gli si vince a meno, ma che vedi la strada, siccome ci sono i bulimani e i randi passano pure la strada, sono in terra, fare un castigliere di capire la ghiaia, però il minuto è però è giallo me ambirullo. Ma da me fuoco, ma chissà fa cosa, a forse pacchiaggi da fiaggio io quest'anno, mentre magari si divisino dovranno a fiaggio e ne farete un tuo calcio, un minuto ma ne farete. E ho pensato che si mette nell'amparo e si ci presci che va via, anche fino a due o tre che il bilancio, ma eppure non li so farati, non li so farati a rati radici che fare gli si caccia. Proprio la tremere i confini, capito? Io pensavo che ne parava, invece no. Infatti sono fai stasera, giusto, sono belli dritti ancora, tranquilli. Ehi, un bel ritardo ha fatto, un bel. No, va bene, poco, sì, poco, qualcosa, però non è un granché. Non è bastato che parava di più, ma per non fare la paesanzi. Ma per me è poco e niente, capito? Simone, le ore che ha servito bene a caso, però ancora tutto bene, ma qui non tocca ancora un limone, capito? La latte è già quasi tutto giallo, però il limone ancora è verde, cazzo, no? E fino a giù bel puro che c'hanno. Purtroppo, questo tempo così, stanno siamo entrati ancora in inverno, no? Oh, faccio un albo di cose, di come si smettiamo, di pure a Cipro, siamo in inverno. Ma sai carica che nei buccia non ti dico niente. Mi viene parato un bel in terra mia, che avrai già cominciato a essere corsa di fara, no? In terra è tutto bene, un tappeto, ma è l'albero fine altre tanto. Ma non so che io, mi ruga ma fine hai sparato, ma chi? Ma vai se caduto. Oh yeah, come c'è un cacchio, la figa era bocco, cacchio uno mi dà la padua, mi dà il farato, tutto guascio, e vabbè, dove fa? Ma da lì un muro vaggio ben, dove l'hanno passato e la buttava a bocco, questo è stato accaricato e sui alberi di villaggio. Due di mandarino e due di mandarancio, da toccare, gli altri dicono bene, dai. Mi ha caricato mezza buccia a dire che c'è mandarancio. Ah, io pensavo che era amaro, invece è buono, ci può mangiare benissimo, l'ha caricato la buccia. Hai fatto un pezzo! Esatto, che a te indano, ci sei, e mi va a far dire, già si mangia. E allora, questo strumento ha rovinato un bel duva, che hanno avvinnannato ancora. Ehi, la madrassi finalmente. Sì, è tutto avvinnannato, ma che c'è già processi sono per di bururu viro, di viro bacchi. No, che c'è sempre a ritardare, oh. La sella giusta al televisore che la comincia a appuntare. Non so come antessa di vigna va, dico. Gli suba minuta era, mi fa vino, aspetta sempre all'ultimo. Ma c'è il socio, mi pare che ci hanno arrivato a prima via la bidendera, ma c'è prima anni di prima si scherzava che a fa finannare che hai detto, altrimenti ma storia già finannato, se mi vede il muro di Rusu, il virus che ci ha fatto, vero so? Andiamo. E allora, Graziano, chi c'hanno, si l'ha fatto, dici che può via, ma solo e basta. E un vino bianco, blu. Adesso è blu naturale, Bonareggio si va da come un traino. Hai senso, ma chi? Come un traino si para. La morte gioia è mi, viraggi di vita, un pulista, ma sempre a mai te, ne vedi, non mi succi. La roba è, finiti i tempi. Vodka lemon, Stocco 84, Vecchia Romagna, Anice, Sambuca, Whisky Long John, Vernaccia, Vinella Ragozza, oh yeah! Ti ha segnato un parato bobo, yeah! Se te l'avevi prima, paro fino a più. E allora, andando tutti in fallimento, Righintini, quando consegnavo Rubino che andasse a caricarlo, a Bosa, non a Bosa, a Coso, avevano mammento via, comunque dalle parti di Bosa. La Ghentina sociale, non mi ammetto che fai gira, però non era Bosa. Riponia la manichetta, ero serbatoio, che va di nata rugame, mi punia cuca da panza in terra, ivi, a bocca manichetta, finenne e succenne. Ah, te, ma chi? Non si credia a me. Certo, la manichetta si punia. Cosa ne esci di imbriaco, ne esci tu? O con la chinaria? Ehi, la gruppi punia. Così che andassi a Ierzo, lo mattese, mi punia sopra a controllare il livello della botte a Cantuela. Mi coccava a bocca, a becca, a Ivi, punia d'azzata. Oh yeah, lì anche a Tempio, alla cantina, a Santa Maria La Palma, e ne ha giubato quintini di vino, e caricavo vino liquido e in cassette da consegnare, e ci hanno trasportato già, a voglia. Guarda, ho fatto quasi tutte le cantine della Sardegna, quasi tutte, tutti là giubbati, pure un inizio a l'ultimo zecchino Gesù Cristo si scia in camion andà a caricare, e poi lo portavo anche dove lavorava a Gio Maria con Mista lì sulla 131, avevano mammento il nome di a Sassari e anche lì a Santa Maria le Conce, lì c'era lo stesso un altro, anche a quello glielo portavo, e poi un altro su, insomma, ricordo che vi era vicino a via Torino, quelle traverse lì c'era un deposito di vino lì sull'acqua, era che si travagliavo io grazie a sull'acqua li chiamavano. Una volta ha fatto una mezza buffonata a coso a Mario Mauro, la buon'anima gatta. Pacchi di sulacco, arregavano i ribuzzini pure arregavano. Gatta, io mi ha giubilato una cascetta per sentire fare la platta mona, allo stesso bicchi, anzi no, allo quattro bicchi. Una volta ha invitato a Mario così a farà a campeggio, che allora faceva campeggio, e farà dire ma però non fate cosa fresca, non sappia cosa invitarlo, penso che a metà mi fate che ci puccini di far vino, ah io siamo migliori, dottore vai a regà un bocciolo di lema alla puntanella. Dice proprio, vai, e ha regato il boccione, figlia di poco, due volte, tre boccini, non mi rammento me, e ha già fatto un vino. Grazie Mario, grazie, più di via, più di via via, e c'ha una chita a cussi, ti hanno raccontato sempre in frequenza, una chita è stata, poveretto, ti hanno cucciata, grazie a te. Poverino, certo, hai fatto imbriagare a cussi. Ma è mia zia, mi vede mia zia un bel, se quasi non faccio si sa più, arriva a casa gioia, si è coccato subito, e da un po' come se tu mi ribassa, a cuscia, una chita a cuscia, ogni tanto non raccontava in frequenza, e tu mi attenti, gli di Sulacco la regava da fuori da Campidano lo vino la regava, allora poi non mi sciavo con questi puccini, no? E faceva ma che da 100 litri li fa via 200, 50 o 300 litri, capito? A forza di bucchini, vino genuino, per carità, divino grazia. Buona vita, se no, quando ho lavorato in Argentina, mi piace più vecchia, mi pare, o piace, ma non mi ha messo la piazza, dove c'era la polizia al suo assassino. C'era la cantina, vino era, 4 o 5 serranti era, ma là non me la metto. E io mi faccio amici per il vino, mi faccio a feria, quando ero in quinta elementare, in prima media. E andassi a chi va a lavorare io, lo babbo di Gigi era, mi lascia mille bracci, mi lascia. E l'aiutava a fare il vino, a imbottigliare, a attaccare le etichette. Fino a brigare, c'è detto si c'è a fare le consegne all'alimentare di Sassari, in città, Sassari Beach, con la moto. Fino a era, non so se l'hai conosciuto, Tore. Ehi, già ho conosciuto quello lì. Magari che non l'ha conosciuto. L'ho imbottigliato io, ci ho lavorato un paio di poco per più travagliato. Sono andato a scuola e andavo a Puglia, che mi lascia ridinare. Tu please. E poi il figlio era coetaneo mio, Gigi, e Gigi, Uccio, erano un bel fratelli. E andavo lì, e era fatto con le bustine e quello. Ma tu giovane era. Ma cosa chi? Conto ti augura una meravigliosa giornata e ti offre uno spogliarello mozzafiato. Da paura, E fanno lo spogliarello. E tu a mai tendi, no? Maniaco, tu sei maniaco. Da paura, mi sta sul davvero di tiramandomi. E state calmo, non ho bisogno di abbandonarci così. Da paura proprio. Che non faccio cose di nuovo, me lo mandava a Torega e a Marchisio. Cosa? Ah, non le guardi? Cosa ha detto tu? Ma ti ripeti, no, che non hai inteso. E mi l'ha rimandata ancora. Era paura proprio qua. Ui, ui, bionda buro e mi. Dai, che andemmo, che andemmo. Poi non hai senso la musica, che bella è sta musichetta. Ma a me sta quando ero militare, in quel periodo era uscita quella canzone, GSM. Ciotti, era Ciotti. GSM. Sì, Ciotti. Buon amour. Mi hai un giubbocco, sono in un bar di Gianinetta. A passare il fuoco, pure a Ierzo. A Tertenia, a Muravera, e tra Veromavera, Rugio Bocco, c'è il pugno di questa canzone, me l'ha messa ancora. E ancora per la presa un gabbo. Era bella, quel periodo era bella, poi la sentivi spesso anche. Con un bacione la via, e chi ha passato poco per lì. Più marchi e che case, ogni casa era un bar. C'è adrescia che a sinistra, era via principale. A chi vedeva lì sono visti i casi, ma erano tutti bar. E un albergo c'era, un albergo piccolino. E c'era bellino, adesso è diventato più grande, però già era bello, va. Sì, posso dorre, usilo. Io sto parlando a passare voi, quando ero lì che mi hanno mandato per punizione a fare il militare, sono tutte postazioni che ho girato in quella zona. Ma chi è un buru? Ciao, ma chi come mai più presto oggi? Sono ridetti quasi. Vabbè, là, se devi chiudere, alla prossima, ciao Bacchi, vai Giammagli. Ok, ciao Bacchi, buon proseguimento, dai, buona serata ancora in famiglia, ci sentiamo, salutoni. A domani se coincide, dottore. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime, se coincide domani, San Davide. Allora, che tempi furono così, grazie a che tempi furono. Perchetta. Bello, io ho messo così vissuto, che su periodo. Non me la fottia nuda, di nuda, mi divertivo lo stesso. Che la gioventù che non se la gode. In tutti i maniere, burla. Ma tutti si sono messati in giovane, più o meno, nel senso che... Però noi ce ne siamo dimenticati, tu ancora fino in capo. I momenti belli se li devi sempre ricordare. Pur sì, magari allo stesso tempo ero i vivi travaglienti. Arma stessi tempo gli ammi di vici a Roma stessi, burusiru, travaglienti, bandino. Cioè lo trovavo lo stesso il tempo per divertirmi, anche se ero lì per lavoro, capito? Eia. Beh, si diventi così e che si diventi di là. Così è tutto. Infatti. Come te prima, no? No, ma è tutto diverso. E allora? Catta, ancora me l'ammento, è già di tre, dove ne chi tre, catti, i quattro cantonati, da pannisci a pannisci, e da quello pisci a buru. Metti a pa, so è di che veri attaccati. Buonasera. Ciao, signor Marì. Buonasera, Gio Maria, ciao Cassiano, ciao Tore, sto Marchisio, è la tua via, peggio per lui, avanti, Tore. Ciao, vai. Ok, ciao Marì, ben sentito. Si prenda Gio Marì. Ok, ciao, ciao Marino. Marì, però non mi piace questa radio, Sei nasino, sei raffreddato, stai molto anche molletta il naso. Fenomeno, buonasera, ben sentito, vai grazie. Ciao Marino, anche a me non è che mi vada molto a genio questa parlamentata tua con quella radio. O ce la butti o te la compri nuova o levati la molletta dal naso. Vai Marì. C'ho problemi al naso, sono veramente nasino. L'intervento l'ho fatto 3 anni fa ormai, sono ritornato come prima. Dunque non è l'apparecchio, sono io col naso che vado male, tutto qua. Ma Bacchisio, già andato via, Giovanni. Bacchisio evidentemente aveva da fare, ha chiuso, vai. Ci ha salutato. Se n'è andato. Sono un attimo, non l'ho ascoltato, Non l'ho ascoltato sinceramente, perché stava facendo cosa, sentivo Bacchisio, ma modulazione 0.0. Va bene, avanti, dati tempi, guarda la tua radio, ormai. Tu invece torni, abbassa la respira e andare, morto. Io non credo. Andiamo, andiamo. Fino a dire, grazie. Tempi belli, tu non l'hai sentita, Gettemi. E chi l'ha detto? Guarda, l'ho sentita bene, Gettemi. Chi l'ha detto? Guarda, sono attento, grazie. Io sono molto attento, ho ascoltato tutto quanto. L'ha sentita GSM, ma non hai visto l'articolo di GSM, quello è il pezzo più forte, perché fa lo spogliarello. faccio fare il spogliarello, tu non abbiamo bisogno di spogliarelli, già ne prendiamo la notte il spogliarello, non preoccuparsi, avanti signori. Sai che ci vuole giudizio a Graziano, ma a Tubari è da un bel che non li vede i spogliarelli in persona, capito? E allora già mi intendi chi si deve, capito? E invece noi ripetiamo di ognarotti. Ma chi si è diverso? Chiama la ministra, no? Noi poi mangiamo gli altri minestroni, no? Diglielo tu, Luca. Luca c'è sempre. Luca non ci rientra. Tore, diglielo tu. Boh, non lo so. Cosa vuoi fare, Mari? Vabbè, passato non è Eva, è vento. Passato, uia, non è vento, c'ho quella palma che hai davanti in vara. Guarda, la contata che c'è nuova cosa palma che c'è, ma dopo te la posso dire, figurati. Se non c'è nuova mi faccio un piacere, mi è alta una, un 12-13 metri di alta. Se non c'è il punto buono, faccio 13. Se non tocca parlare, per buttare la storia, avanti giornalista. Forte era, è un bel po' c'era che ci metto, un gigaccio, però ha calmato, già c'è poco, però è un bel poco, ma dopo pranzo, adesso Maria Giuseppe Cantu, Venturina, libera 97 km all'ora, minimo è. Buono, io sono il confidente, la villetta a fianco a me, diciamo, dietro me, che si è fatto, che è stato pronto, perché è un pronto, quel colore della Romania, io avevo tutto recintato con i paletti e con la vetta bella affidata, ben messa, l'ha fatto lui, siccome si è sposato, ha tolto la vetta e ha messo il cannetto, il canne di bambù intorno, l'ha fatto, e l'ha legato così ai vari paletti, era tutto in terra, quando è venuto stasera era tutto in terra, un casotto ed è incazzato, lui l'ha fatto, scusa prima che faceva il muro, aggiungeva il muro mio e continuava, invece poi ha detto, no, ma da quando va? Se ne soldi e per me ha speso lo stesso tanto qualche anno di bambù con la matese tutto in terra lo sentivo per segnare in albo stasera avanti Giovanni fa girare un benedetto ha fatto un benedetto per carità alle due ho visto il giornale regionale della Rai la vita portatura la grande ragazza Rubugna ha fatto e poi non fa da Maccomeri, Ibe peggio ancora, grandine non finiva più, ma per d'ora non faccio vedere la grandine, ma dura, cazzo il bugno. Se ha fatto un caso per danno, ma molto danno ha fatto, bene, non si fa. Se lo vi penso un tempo, certo, se mi andate diverso mi andate. Tempo suo, però ha fatto tutto assieme, ma ha visto il continente il casotto, il danno che sta facendo, un macello è. La terra si sta girando, è colpa nostra, avanti Graziano. Ehi, non l'hai visto ogni pezzo di grande, ne hai facciato un prete di macchine, carrozzerie di macchine, ogni ballottola di ghiaccio. E la paga, la busciacca, no? Ah? E chi paga, la tasca? E la paga, nessuno, con gatto indennizzi, boh. Con Bernacca, a colpa di Bernacca, avanti giornalista. Graziano l'ha visto del giornale, però il giornale già l'ha redatto, per cui capite che proprio io non l'abbia visto mai grande la così grossa come in Tricano, poi ha posto d'ora fatti l'ha fatto un bene, però l'ha fatta Rinotti e a Pace Manzano questa grande russa. Ah, ma come non si ne fa vedere chi dice pure macchine a tutti i ciacconati, li prende tagliati, ti ha fatto un po' di danno. Anche qua stata lì in alto verso Viale Dante, sopra i vivi, dove i pompieri. Hai passato un bel di macchina, hai passato. Vedo un po'. No, ha giusto visto il Bosco Torre e a Marcome ha giusto giuro, capito? Sono visto a giudizio, cazzo già grande, ma è una cosa incredibile, cazzo. Ma ti dà la zaccappa uno, cazzo, lo fa, si farà in terra, so. Cosa vi fa? Tu tempo, cosa che ti devi fare in un mese te l'ha fatta in una di. Chi si diffonda nel cranio se sta gata in pieno? A me è tutto a crebarbarare l'ovreggio della macchina e a curà i lamieri di capote, goffani, di macchine. E figurati se agatta un capo, secondo me se tiro gribba. È un casotto, beh, io riprendo che mi sta chiamando mia nipote. Ciao Gio Maria, ci sentiamo domani, se coincide, saluto in casa, ciao Graziano, ciao Attore, sono riprendi, io chiudo perché mi sta chiamando mia nipote. Ok, saluto gli ascoltoni, quello ti prende, dai, a domani se coincide. Ok, vai, ci sentiamo nei prossimi, ok. Riprendi, grazie. Ciao Marino, buon proseguimento. Adesso che sta dicendo bene se n'è andato. Va bene, alla prossima. Ciao Marino, salutoni in famiglia. Bacio Marino. Ciao Marino, ci sentiamo alla prossima, attendi pure. Ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao, riprendi. Ehi, sono robot. Ebbene, chi siamo rimasti? Io, tu, lui. Mimmi e Coco. Per carità, tutti morti. Luca Flippero non è più entrato. Beh, Luca Manicomio ha dato lo zuzzardo e se n'è andato. Beh. Chi ti ha detto che aveva fame e è andato a mangiare? Beh, vabbè che è già buio, ma lo dico. Ui, andiamo a me, andiamo, so. Cosa vuoi fare? Cosa volere fare e andare così, da? Tore? A Gio Maria. Te lo posso chiedere? Domanda. Ok, col nuovo sì o col vecchio? Col presidente. Ah, ma ho capito. Va bene, no, quello volevo sapere. Perché c'ha un timbro quella radio, no? Allora, con la bacia portaccia qui. Il microfono da tavolo. Infatti. Va bene, cioè, va benissimo. Avanti, grazie a Nido. Io, ma io già l'ho sento bene a Tore. Ma Marino adesso che sta facendo bene questo passaggio che ha fatto, ha chiuso. Secondo me è lui che parla col microfono magari più lontano e si è un po' distorto. Perché adesso è uscito bene. Era parecchio, come cade a freddo esce male, da voi cadi, cioè, da voi esci più bene. Gloria, capisci, no? Ti vai pure un braschetto, eh. Vabbè, come intendi, gliel'ha detto. Ha detto che per aria fredda ti allungrevi più del tuo cappello, non pensavi più che altro, è umido, però ha ridotto per l'ambe di gatto, cazzo, pure sopra un letto era un buon caso, cazzo, mi immaginavo per un caso, nonostante che era sempre vendeva, e per l'ambe di gatto, è a bacone a bicchio, io faccio un bacone, un'anta è a bicchio. Eppure da me c'è la zanzadera abbastanza lavorgibile, non è tutta abbastanza, e il vacone sono chiuso, e cioè il lanciore è un copriletto di quelli estivi sopra, che fini fini, no, e non è tu gli altri casi, un poco di freddo, appena intendi, quando rimane fermo bussato, allora è giù, si intende. Infatti, soffro un po' a freddo ai piedi, e quando voglio freddare bene, voglio freddare la persona. Ma, se continua il suo tempo così, la sedola è stufa, me l'ha già fatto la provincia io. Ma ho 48 setti sacchi, ho 48 anni. Così che a me non mi passa. Poi comincia a far freschetto, comincia a attaccarla io. Qui la città Paoletta, stamattina, se mi sai stasera se sembra la stufa. Ma se ci vai, non puoi. Allora non è accesso. A chi fa il caldo ne fichi ancora. Fasi freddo, la sera che fasi freddo la sento io, poi io la sento dalle 4 in poi, no, prima non la sento, per la sera non la sento mai. solo la sera la seguo, alle 4 e poi la seguo la tuffa. Si mette all'Odisi, l'Odisi è 10, 11 mesi, 7 volte, capito? C'è pari sole la seguo io, mentre durante la vita non la seguo mai. Ma io molte volte la accendo qua, si parla di Darmanzano, la buro e la accendo. Dipende dalla giornata, se è molto fredda, se è molto umida. Allora la accendo Darmanzano, fissamente all'inizio mezzo l'ondese di luce. Però la accendo la sera, il pomeriggio, là. O se no in genere la accendi a mezzodì. Magari caso ci fa freddo, hanno prima l'ora del mangiare verso l'una, magari così la faccio su condensatore, ma sento un'oretta un condensatore e da buono il sonno. E tira madrassi così, ma a cacchi di mille forse, dice, non tutti i bogliati, 60 minuti avanti. Avanti, che vuoi entrare? Sto Maria ha detto che se ne è una bagogna, di proprietà. Ma infatti sa cosa si pensi, non sai cosa si pensi, dici tutto. Ma dopo se ve lo dico si offende. Ah, il filo che passa i cioccolati da voi. Ma non fa entra. Non la vagogna entra. Andate là. Sì, Milatina, grazie. E lo sai il tuo rumore? Tutto. Metticcio. Cerchi di domare ad Avareggio. Correggi, io bene che ti do un pannolino, bene. Hanno imbruttati. E allora, Luca, ci sei? Non sei Luca, no, tu ti ho riconosciuto, ma la bella. Mi sa che avanti a condurre me, che ho la le 7:20 sono, Tore. Hello! La mano sta condotto là! Ce la sentiamo a domani, tanto il motore non entra! Luca si è perso! Ma niente, sarà! Lì se l'ha andato di traverso ed è morto! Affugato! Caro vuoi bene! Cazzo, se chi da mangiare che fa l'appetito, tu non hai appetito, dici che faccia mangiare, tu grazie. Ma non è che mi rientra, se non fa entrare su bannuta. Pensa al messaggio, mi ha mandato che era da 27, e i fari. Vuol dire che è impegnato a fare le altre cose più importanti. E allora, ci sarà il calzino di Mazzelli. Avanti tu. Sarrenni sì, grazie. Tanto siamo rimasti i tre della crociata rossa. Mimì, Gogo e Italia. Cosa vai a mangiare? Ciao a tutti, grazie. Cosa vai a mangiare? Poi Cortini ha fatto di mia lampa, va. Che è? Se la giusto dai nocchi, mi dà. La cucina. Fino al sughetto, ma è passata tutta l'arrabbiata, mi è rimasto un po' da mezzogiorno, ma a mezz'ora che mi fosse un te, lui non ha giocato. Ma io la ci faccio, tre piedi di dita, cacciami, a mangia freddo, da voi lo graffito, aglio e presepe peperoncino. Da voi c'è del gioco, grazie. Nel polpettino c'è anche il peperoncino. No, Paletta si ha fatto le orate in forno con le patate, come figliuta. E io mi ho fatto i polpettini, quelli piccoli, i moscardini, col sughetto piccantello e con la patata asciutta e celentane, mi pare di giamma, che è girata, marini molletti. Con il suo arrabbiata. Ma lì sai cosa ci vuole però dopo bianco, No, vino non ne vinco, no, sto prendendo le medicine, altre medicine, proprio per via di influenza e va vino, no, vino non ne vinco, come se dovevi a me la vinco la gesta zitta. Vabbè, Danilo, il vino non ti fa nulla, amico. Un mezzo bicchiere non ti fa nulla, non ti fa. Anzi, ti aiuta a pulire il sangue. Beh, che ho finito l'altro giorno gli antibiotici, capito? Sto prendendo gli antibiotici anche. E non ha giù nulla. Ho costruito un po' di chissà castagna, però chissà castagna grossa, non è minuta, è matura, bene. La bundita, e ciao ti do con la chiccio buru, grazie. Che ci sono, i marroni di Giamma, ne ho visto la televisione oggi, in continente, questi qui che lo fanno da anni di eredità. Fanno quel lavoro lì, raccolgono le castagne, vanno le marroni, le castagne normali, le marroni che ha visto Lugosio, no? Dove crescono, ce n'è una al centro che è più grande e quelle due laterali rimangono più piccoline, la staccata ed è bianca, però il sapore è buono, è più buono di quella normale, ha detto. E ha fatto bene, raccolgono, le portano questo dolce qui, dove fanno i dolci. Le lavorano, le trattano e fanno i dolci. Un bel di dolce burro ha fatto, buona rete, venassi. Sono buoni, infatti, sono bianchi. Ti dico che sono buoni veramente. Bollite, cazzo, ci sono così, buonissime. Però abbiamo questa misciata, pure questa di un minuto, pure il mezzo, capito? Pure qui c'è la voce, la saggia, pure ogni tanto bisogna fare anche cose di diverso, perché se no non puoi mangiare sempre la qualsiasi cosa. Li bevi, sono buoni, cazzo, una sviccia dura, grazie. Ha fatto vedere il modo per staccarsi la pellicetta che c'è sotto. Una volta che spacchi solo la buccia, le fai bollire, una volta che le hai bollite le scoli, le metti nella teglia, le metti nel forno, le lasci un po' nel forno, le levi e le sgrani e rimangono croccantelle e tutte sbucciate, non ci rimane quella pellicina attaccata. Chi li sa fare quelli, io questi non li ho mai mangiati. Oh, le ha bollite, gli ha fatto il taglio, solo la buccia, senza incidere la castagna. Le ha bollite, le ha scolate, le ha poste in teglia, le ha poste in un forno, un poco, va bene, le ha rugate e la castagna invece burizza là dentro il guscio. Non c'ha quella pellicina attaccata. Ma che li sa fare? Io non l'ho mai fatto, però per adesso mangiamo queste cose così. Che ogni tanto, ma a me mi piace un me, per cui. No, mi piace, Dio mi si bene, mi dica che si vede l'agnello, ho capito? Se Dio mi piace. Già li compro anche io, però io di chi se non ne mangio, ne mangio a Maoletta, si va tagliata il sughetto, io non ne mangio però, quelli dell'agnello già li mangio, uno, due, noi ne mangio assai, l'assaggio è buona. Che si mangi gli arribigliano, ma se si rifate in maletta, mi vedi ora li mangia, io no, non mattina, va vabbè, dai, io chiudo. Ciao Gian Maria, a domani. Ciao Tore, ciao che ascolto. A domani. Ciao, grazie, ci sentiamo domani, ok, ciao. Si prendi Gian Maria. Ciao, grazie, ci sentiamo, va, saluto a Paoletta. A domani, se Dio vuole. E così to. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Noi Gian Maria, cosa vuoi fare? Ah, va, è cazzo, io mi torno a vendeva. Devo andare a pigliare la signora io. Se riesci in mezzo all'eva. Ah, ma deve andare. Subito devo andare. È piovendo, se aspetta che guardo. No, non penso che stia piovendo, va. Ma non rivenga da se la vendeva. No, no, sta piovendo tu. Non è forte forte, però sta piovendo, cazzo. Purtroppo mi sei uscito. Purtroppo devi uscire, ma io mi reggo una baracca a muro. Beh, all'uscita della macchina, un greve uglia. Vabbè, mi sono chiuso al magazzino, c'è Zira. Mi era prendendo appunto una motosega. E ti dico, il leva, lì trova tutto a destra del bocciale, a tutto il bocciale, ci vuole tutti fuso. Ma forse, vento Eva, non avevo idea. Ehi, cazzo, quando su questa tu sacchetti direi nel magazzino, va bene, non bucciare, ma tutti fuso. Se mi dicendo che il momento era a voce si è girato. Sai che ci dà regalo. Cazzo, mi sono rimasto bocco, anche per pure un fresito. Ha detto, no, no, no, io no, che non andiamo d'accordo. Cammina, giù di tu, se rientro subito. Vabbè, tu ci devi andare, vai pure tranquillo, dai. Sei stato 7 mesi. Tra un cosa e l'altro, tipo, vabbè ci si è acceso un buco, dai, inizialmente chiama. Sì, dai, dai, ci sentiamo magari domani, se in caso torno più tardi. Ok, ciao Gian Maria. Ok, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.